Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Ma cosa significa frequentare minorenni? C'è chiaramente un significato malizioso e grave dietro queste due insignificanti parole. Nel corso della vita, tanti uomini hanno l'opportunità di frequentare giovani donne. Pensiamo agli insegnanti delle scuole superiori. Anche loro frequentano minorenni e facilmente. Se si volesse cercare di rovinare qualcuno, non sarebbe difficile interpretare gesti e parole per creare montature fantasiose. Quando si vuol far del male, qualsiasi comportamento può essere tradotto in malafede e tutto può diventare sporco. Abbiamo già visto nelle cronache sui giornali insegnanti, bidelli e persone innocenti trasformarsi in mostri da prima pagina. Questo tempismo, che crea tanto polverone sul Presidente del Consiglio alla vigilia del voto, è palesemente l'unico tentativo della sinistra di cercare di arginare il consenso senza precedenti di Berlusconi, cercando di infamarlo su temi che tutti i padri e le madri italiani condannerebbero senza limiti di appartenenza politica, sperando di schifare quanti gli darebbero la preferenza, cercando di diminuire la distanza fra PD e PDL. Per non dover morire di delusione, scelgono di far morire l'avversario di vergogna. Per non parlare di quanto sono caduti in basso, fanno parlare di quanto sia impresentabile il loro nemico. Ma il gioco è scoperto e non ci sfugge. Ma com'è che non fanno accuse precise, fondate, certe? Perché sento solo dubbi, insinuazioni, tanti se, ma nessuna prova? Perché non c'è nessuno che, al di là del pettegolezzo da cortile, si prenda la responsabilità personale di accusare Berlusconi con fatti dimostrabili? Parlano tutti, ma di cose sentite, di cose lette, di cose chissà pure inventate. Ogni cosa è lecita in politica, se il fine è tanto importante, anche i colpi sotto la cintura. Questa sinistra non ha rispetto dei cittadini che non la votano e diciamo che è veramente insopportabile sentir sempre parlare del popolo che vota Berlusconi come degli ignoranti condizionati dal carisma di una persona indegna a governare. Non propone nulla di seriamente alternativo a certi provvedimenti, non ha idee da prendere in considerazione, se non offerte di denaro a tutti quanti sono in difficoltà, come se i soldi piovessero dal cielo. Propone esattamente il contrario di quanto realizzato nei 2 anni scarsi di governo, sprecati unicamente per disfare quello che a fatica si era riusciti a far accettare. Il famoso scalone, diventato ora scalino, che finirà per rimettere in gioco il problema pensioni quanto prima. Si urlano tante richieste di verità sui comportamenti più o meno leciti del Presidente del Consiglio. A questo punto, anch'io rivendico un mio diritto e quello di tanti cittadini italiani di sapere la verità sul precedente Presidente del Consiglio, che fu indagato da un magistrato, che ora viene candidato dalla stessa parte politica, che lo riteneva coinvolto in problemi ben più gravi di interesse economico e politico e di cui tutto è finito nell'archivio dei ricordi e forse anche dei tribunali. Anch'io voglio la verità, senza malizie, senza gossip, senza morbosità, solo la verità. Alla luce della cronaca di quest'ultimo mese, si è capita la validità del tanto contestato lodo Alfano. La sospensione, e non la soppressione, dei processi a carico di Berlusconi, in un paese dove l'opposizione sistematicamente usa l'arma giudiziaria per realizzare gli obiettivi che con quella del consenso non riesce a raggiungere, è l'unico modo per non cadere nelle imboscate tese con la puntualità di una bomba d'orologeria. Ma a furia di gridare al lupo, nessuno si spaventa più. E il risultato di questa grande bagarre sarà che chi detesta Berlusconi lo disprezzerà ancora di più e chi lo amerà con più forza, considerandolo una vittima di spregiudicate e inutili critiche, allontanandosi sempre più dalla parte che lo attacca. E poiché la maggioranza non è a sinistra, i risultati parleranno da soli. Giulia. Cara Radio 24, trasmetto la lettera circolare inviata ai leader della sinistra. Onorevole Emma Bonino, onorevole Massimo D'Alema, onorevole Oliviero Di Liberto, onorevole Antonio Di Pietro, onorevole Paolo Ferrero, onorevole Dario Franceschini, onorevole Franco Giordano, onorevole Nichi Vendola. Spero di non aver dimenticato nessun altro rappresentante di partito progressista, ce ne sono tanti, e ne nascono tanti che potrebbero sfuggire. E qui sta la tragedia italiana, in questo continuo frazionamento, mentre la destra marcia compatta e indenne verso il tracollo del paese. Loro sono come il cancro, inattaccabili, si insinuano come metastasi e crescono, si allargano, mentre l'altra parte litiga su tutto, si divide, si pavoneggia nello snobismo intellettuale, incomprensibile ai più, assolutamente inadeguato alla realtà italiana. Gli italiani sono superficiali, rimbecilliti da certa televisione, ottenebrati da un papa e da una chiesa che appoggiano il diavolo, pur di contrastare i comunisti che non ci sono mai stati in Italia, mai da soli al potere e mai ci saranno. I fascisti li abbiamo conosciuti, li abbiamo avuti per 20 anni, ma i comunisti non hanno mai governato veramente. Chi li ha mai visti e provati? Moriremo con questo desiderio. Eppure, rappresentano il grande spauracchio dell'italiano tipo. E qui si spiega buona parte del successo dell'italico cavaliere. È lo scudo dell'inesistente pericolo rosso e raccoglie il consenso della maggior parte degli italiani. L'intelligenza è la capacità di interpretare la realtà ed adeguarsi, ed è su questo punto che non si capisce come voi altri possiate litigare e dividervi mentre un mostro sta divorando il paese. Intelligenza e buonsenso dovrebbero spingervi sotto la bandiera più solida, riporre lo scettro del leader ad ogni costo, anche del partitello di quattro gatti, ingoiare le vecchie stantie glorie radical comuniste e salvare il salvabile. Invece, non succede niente di tutto questo e quindi siete assolutamente inqualificabili e siete responsabili dell'incubo che stiamo vivendo da quando è sceso in campo il cavaliere. Con rabbia e disprezzo, Silvia. L'estate scorsa un marocchino mi aveva incastrato la macchina davanti al bar con il suo camioncino e a suo ritorno, parecchio tempo dopo, mi ha ricoperta di parolacce irripetibili, aggiungendo che potevo andare tranquillamente dai carabinieri, che a lui non fregava niente. Infatti ci sono andata e loro effettivamente mi hanno detto che avrei dovuto fare una denuncia, assumere un avvocato e la cosa sarebbe andata a finire alle calende greche. No comment. Bimba. Spettabile redazione. La democrazia parlamentare in diretta è una forma imperfetta di democrazia, imposta dalla grandezza degli stati nazionali moderni. La proposta di dimezzare il numero dei parlamentari non può dunque essere giustificata dall'esigenza di rendere più povero e rozzo il sistema della rappresentatività in diretta, già per sua natura schematico e approssimativo, ma solo da necessità economiche di risparmio. Ma allora, se la logica di tale proposta non è populista e demagogica, perché non dimezzare o ridurre anche più drasticamente lo stipendio e la pensione dei parlamentari, lasciandone inalterato il numero? In una nazione di 57 milioni di abitanti, l'attuale numero di parlamentari non è certo pletorico. Riducendo notevolmente lo stipendio dei parlamentari, si eviterebbe il rischio che essi costituiscano una casta separata dalla realtà e dai problemi della gente comune. È forse un dogma di fede intangibile l'attuale livello di reddito dei parlamentari italiani, tante volte criticato, ma mai significativamente ridimensionato. È evidente che il dimezzamento del numero dei parlamentari, da un lato, rappresenta la garanzia definitiva del loro status economico privilegiato, dall'altro pone le premesse per un ulteriore innalzamento degli stipendi per la futura elite più ristretta. Soprattutto costituisce per i partiti un modo per controllare più facilmente tutti i loro eletti, riducendo il rischio che qualcuno ogni tanto pensi con la propria testa, voti secondo coscienza, o si avvalga della libertà di pensiero e di parola nel Parlamento, mantenendo fede al mandato che i suoi elettori gli hanno dato, ammesso che con l'attuale sistema senza preferenze si possa ancora parlare di autentico mandato elettorale. Leonardo. Caro Leonardo, lei propone invece che dimezzare il numero dei parlamentari di dimezzare il loro stipendio. D'accordo, ma non vedo le due cose come alternative. Si può tranquillamente ridurre il numero dei parlamentari senza far correre alcun rischio di riduzione delle garanzie di rappresentanza. Si può, anzi, si dovrebbe ridurre anche i loro stipendi, che sono nel loro complesso i più alti d'Europa. Ma questa ipotesi è molto più difficile da realizzare della prima. Eppure si potrebbe semplicemente invertire quello che è avvenuto finora per i parlamentari europei. Finora i rappresentanti a Strasburgo percepivano un compenso uguale a quello dei rappresentanti nelle singole nazioni. I nuovi parlamentari, che saranno designati nelle prossime elezioni del 7 giugno, riceveranno invece tutti lo stesso compenso e per gli italiani si tratterà di una significativa sforbiciata. Ecco allora la proposta. Adeguiamo gli stipendi dei parlamentari italiani a quelli in vigore in Europa. Sarebbe un esempio di sobrietà che, unito alla riduzione del numero, costituirebbe una riduzione forse simbolica, ma comunque significativa, della spesa pubblica. Dario Franceschini chiede alle italiane e agli italiani se farebbero educare i loro figli da Silvio Berlusconi. Ma perché non rivolge la domanda a se stesso? Chi li farebbe educare i propri figli a Franceschini? Io non glieli affiderei nemmeno se fosse l'ultima possibilità. Quindi, queste domande le faccia a se stesso e non ad altri. Ci sono in giro mariti che cornificano le proprie mogli senza ritegno, ma sono padri migliori delle madri santine. Vorrei anche aggiungere che se Repubblica e Franceschini si sono ridotti a fare domande di questo tipo e a preoccuparsi di come il Premier utilizza il proprio tempo libero, è chiaro che altre argomentazioni non le hanno e che si sono ridotti peggio di Veltroni. Quello che ne risulta, però, è evidente. Questo governo sta lavorando bene ed è chiaro che a qualcuno dà fastidio e che qualcosa dovevano pure escogitare per provare a delegittimarlo. Si sono perfino ridotti a chiedere l'aiuto del Times e questo dice tutto. Isa. Sono direttore amministrativo di una società di medie dimensioni. Vorrei segnalare come il sistema bancario si stia muovendo a sostegno delle imprese. A parte le innegabili difficoltà che le imprese hanno per accedere al credito, non solo in merito al costo del denaro, ma anche all'erogazione del credito medesimo, le banche, a seguito della soppressione delle commissioni di massimo scoperto per utilizzi oltre il fido, hanno deciso di introdurre un nuovo balzello a carico delle società rappresentato da commissioni di mancato utilizzo dei fidi e commissioni legate alla gestione dei fidi. Tali commissioni arrivano ad essere 10-15 volte superiori ai costi che le aziende sostenevano in precedenza. È evidente che, in una situazione come questa, poche sono le società in grado di reagire a tale vessazione, poiché il rischio è chiaramente quello di vedersi messi a rientro o vedersi negate determinate linee di credito. Il sistema bancario non sta supportando le imprese, ma nel migliore dei casi le sta spremendo, nel peggiore addirittura aiutando ad affossarle. Gianluca. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.